Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Come ogni domenica, un cordialissimo saluto da parte di Gesi e di Antonio. Ciao Antonio. Ciao Gesi. Come stai? Beh, insomma, compatibilmente con gli acciacchi e con l'età. Con questo tempo che va e viene. Sto scherzando, naturalmente. Sì, sì, ma non mi preoccupo. Non ti preoccupi. No, assolutamente no. Benissimo, allora a te la parola. Allora, un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Ricordiamo il nostro indirizzo internet, bluradioveneto.it, il numero di telefono per sms, consigli, proposte, suggerimenti e quant'altro, 346 23 20 033. Ricordiamo anche che è possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, senza dimenticare un saluto al nostro regista Eddie. Ciao Eddie. Ciao Eddie. E questa sera abbiamo un gradito ospite, molto gradito, e un debuttante per quanto mi sembra che gli concerna. Sì. E Carlo G. Zizzola. Buonasera, buonasera dottor buonasera, Zizzola. Buonasera, buonasera. E grazie per l'invito. Ecco, noi siamo lieti di averla qui con noi. E seduta in disparte, e la salutiamo virtualmente, c'è la sua signora, gentile signora, la signora Vanni. Bene, allora, prima di passare a leggere un pochino il curriculum del signor Zizzola, ci ascoltiamo la prima canzone in programma, che è intitolata Grande, Grande, Grande, cantata da Mina. Torniamo in studio e adesso il nostro Antonio ci leggerà un breve curriculum del signor Zizzola. Certo. E poi daremo la parola a lui. Alcune note biografiche. Carlo G. Zizzola, il dottor Carlo G. Zizzola, è nato e vive ad Asolo, città dei Cento Orizzonti. laureatosi a Treviso laureatosi a Trento in sociologia, si è poi occupato dell'azienda di famiglia. Sposato, ha avuto 3 figli. Si è sempre interessato di attività culturali che ha promosso nella sua città. Dal 2002 si dedica alla poesia ed ha pubblicato 2 libri, Per le strade nel 2004 e Vortici nel 2007, pubblicati da Edizioni del Leone. Ha vinto alcuni premi in concorsi nazionali di poesia, quali Il Giunco a Brugherio, Milano, 2° premio nel 2009, a Eboli, 3° e 3° premio nel 2009 e 2010. È stato segnalato a Conegliano Veneto e ha vinto il 1° premio a Castelfranco Veneto. Dal 2010 ha cominciato a scrivere racconti e romanzi, tra i quali Nel letto dei signori, ambientato anche in Asolo. E bene. Buonasera, dottor Zizzola. Buonasera. Buonasera, dottore. Scusi, ma non sapevo, adesso lo so perché ho visto il curriculum. Comunque, allora, lei si è dedicato all'azienda di famiglia, non ha insegnato, non ha... No, per circa 30 anni mi sono dedicato appunto all'azienda di famiglia, un calzaturificio ad Asolo, fondato nel 60 da mio padre, e appunto appena dopo la laurea sono entrato in azienda, e, che poi ho ceduto nel 2002, e da quel momento, avendo diciamo più tempo a disposizione, ho ripreso mi sono dedicato a un vecchio amore, alla poesia, che questa passione risale ancora alla mia giovinezza, quando avevo 17-18 anni, e come la maggior parte dei ragazzi e degli adolescenti scrivevo poesie. Poi naturalmente ho abbandonato questa passione per appunto dedicarmi all'attività lavorativa, però mi è sempre piaciuto scrivere e appunto quando appena ho potuto l'ho ripresa. Quindi dal 2002 lei è in pensione praticamente? Diciamo di sì, sono a mezzo servizio . Ho capito. Beh, così ha più tempo di dedicarsi. Le poesie che oggi leggeremo, stasera leggeremo appunto delle poesie, una me l'ha mandata proprio l'altra sera, che è proprio appena sfornata, no? Una di queste poesie. Sì, è la, sì. La terrazza. Sì. E, lei forse voleva sapere qual era il mio... qual è stata la mia gestazione poetica. Sì. Io sono partito appunto da uno studio abbastanza attento di alcuni poeti nazionali. Ho cominciato da Ungaretti, che mi è sempre molto piaciuto, e inizialmente mi sono proprio ispirato a lui. La mia prima raccolta, Per le strade, è chiaramente ermetica. Successivamente mi sono interessato anche ad altri poeti, quali per esempio Montale, sì, o Quasimodo, Sereni, questi fra gli italiani, e fra gli stranieri principalmente a Neruda. Uh-huh. Anche García Lorca, e attualmente sono molto attirato dalla poesia di Eliot, di Thomas Stern Eliot. E poi vediamo. E i poeti, non so, Carducci, Pascoli, Leopardi? Le piacciono, cioè, le dicono qualcosa, le suscitano qualcosa? Siccome a me piacciono tanto. Ma sì, beh, indubbiamente sono dei poeti molto importanti che non si può ignorare. Però diciamo che mi sono orientato principalmente sulla poetica del Novecento, nei primi decenni del Novecento fino appunto a poeti attuali, non perché non consideri questi poeti importanti, ma forse perché mi sono sentito più vicino, diciamo, sì, una questione di identità, sì, di vedute, sì. Certo. A me piace molto Cardarelli, non so se l'ha mai letto, è un poeta che mi piace tanto. Vincenzo Cardarelli. Vincenzo Cardarelli, sì, che poi l'ospedale di Trieste ha preso il nome, no? Sì. Cardarelli di Trieste, sì. E quello è un poeta che a me piace tanto, dei classici, come mi piace anche Guido Bozzano. Piccole cose di pessimo gusto. Vabbè, allora prima di passare a leggere le poesie, cosa dici Antonio? Farei un'altra canzone. Un'altra canzone? Va bene. Benissimo. Allora, la seconda canzone in programma è cantata da Edoardo Vianello ed è intitolata Oh mio Signore. In questo mondo io non ho avuto tanto, eppure sono contento, sono contento. Oh mio Signore, io ti ringrazio ogni cosa che ho avuto. Grazie per tutto quello che tu hai fatto per me. Però se questa sera posso farti una preghiera, mondo io non ho avuto tanto, eppure sono contento, sono contento. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite, del quale inizieremo a sondare l'universo poetico attraverso alcune composizioni. La prima, Jesi, si chiama? La Quiete. La Quiete. Da che raccolta sono tratte queste? No, queste sono inedite. Ah, sono addirittura inedite. La Quiete è inedita, sì. Ai, ai, ai. Allora, la prossima volta bisognerà che facciamo quelle ormai già pubblicate. Consolidate. Bene. Certo. Benissimo. Bene, allora, La Quiete. Dopo tanta testimonianza di luce e vento, ecco la quiete che dilaga a sfumare le cose e la loro risonanza nella vampa di questa estate piena. È la beatitudine del nulla, l'ignota presenza del paradiso in una mini storia appena scritta. Il cielo si è ingoiato le nuvole e le nostre urgenze. Il corpo s'abbandona in un pensiero errabondo e mi chiedo fino a che punto io possa ancora sognare, colorare l'attesa, affondare le mani nel cuore del tempo. L'ombra di un volto mi sorvola, mi illumina, si dilegua nella lontana voce del vento. All'imbrunire. come se fossi mal preparato a questo tempo d'attesa, eppure tremo al pensiero che finisca. Me ne sto muto tra pochi avanzi di luce, senza alcun brusio né grido né fracasso, ma solo con immagini che mi accompagnano, un enigma importante, e stelle e farfalle che si spargono tra fluidi opposti e salgono, scendono con l'ostinazione di chi si aggrappa al corso degli eventi quando la sera si stende contro il cielo e poi guarda la notte. Allora, spiaggia del nord. Nei lunghi inverni desolati ci spartivamo sorsi di timida luce. Le nuvole si sgranavano sparpagliate dal vento, traballava la casa sotto l'ira delle raffiche e sul litorale una schiuma persistente minacciava il nostro rifugio sottile. Poi, d'improvviso, si rovesciavano come una cascata di diamanti le stelle e noi restavamo, muti e tremolanti, tra le chiome della notte. Il promontorio. Il promontorio nella foschia notturna, un fantasma guercio immerso in un odore di salsedine, sempre in attesa di una folata di vento, lungo spiagge contorte dal dio del mare. Le alghe, sbalzate da flutti spumosi, si aggrappano ai piedi in una quiete stesa tra nuvole flessuose, figlie del tempo. Il torpore acquieta i sensi, il minuscolo mondo degli amori, il dilemma improvviso nell'attesa che la vita si pronunci, se è un dono o un fato il ricominciamento. In un'esistenza che si impigrisce con amara tenerezza nelle forme opache del giorno, nel vento che suona tra le scogliere o si inabissa nel petto in una bufera, in un naufragio. Bene, belle. Adesso leggiamo l'ultima. La terrazza. Da questa terrazza in faccia al mare l'orizzonte sembra incastrato tra la superficie ripiegata dell'acqua e lo sporco del tempo, ma non mi nuoce affatto. Trasformo questo momento in un luogo dove sorridere di giorni sempre in riparazione, di assenze da una casa non raggiungibile a piacimento, di un bacio appassionato, miglior inizio di un romanzo, di un'attesa scritta in un taccuino col riverbero delle parole, e poi, più avanti, di un'altra notte. Molto bella questa qui, mi piace tanto. Allora, abbiamo così dato un assaggio delle sue poesie. Vedo che c'è un po' di tutto, c'è anche l'amore, vedo che lo tratta volentieri, vero? Ma, diciamo, naturalmente l'amore è un tema che non può sfuggire alla poesia. Diciamo che queste, se dovessi definire queste mie poesie, le definirei come poesie intimistiche. Sì, abbastanza, sì. In cui rifletto tra me e me sul senso appunto dell'amore, sul senso della vita e soprattutto mi confronto con il senso dell'infinito che cerco di far emergere in ogni composizione. E i suoi libri che ha pubblicato precedentemente, cos'erano, più o meno su questa falsa riga o trattano altre cose? Ma ad esempio il primo, vediamo. Ma per esempio il primo, per le strade, parte da un'esigenza di scrittura, cioè avevo scelto una forma di scrittura ermetica, cioè l'ermetismo, e questo ha logicamente condizionato le mie composizioni. Direi che sostanzialmente non c'è una grande differenza fra il primo e il secondo libro e le composizioni che penso di raccogliere nel terzo, spero di prossima appunto pubblicazione. E questo perché secondo me la poesia è un po' mettersi davanti ad uno specchio e guardarsi intensamente, intimamente, no? E quasi astraendosi dalla realtà, anche se poi si vogliono raccontare i diversi aspetti di questa realtà. Beh certo, perché la realtà purtroppo ha tantissimi aspetti. Bene, allora, poi lei ha scritto anche dei racconti, difatti poi dopo ne leggeremo uno, e quando, ne ha scritti parecchi racconti. Ma ho scritto 7 racconti, di cui 3 sono ambientati nel luogo dove noi andiamo in vacanza d'estate, in Val di Casies, e che ho scritto, diciamo, quasi per gioco, spinto un po' da un'amica che viene con noi appunto in vacanza. E, sono racconti abbastanza brevi, diciamo, non sono generalmente collegati fra di loro, affrontano temi diversi. Quindi ha scritto un libro anche di questi racconti o così sono sciolti? No. Non li ha raccolti ancora in un'antologia? No, non li ho, penso di raccoglierli, però vorrei scriverne qualcun altro prima. Almeno una decina? Almeno una decina. Che poi così presenterà anche un libro di racconti con un bel titolo sicuramente. Ma spero. Beh, prima di cominciare a leggere il racconto ci ascoltiamo la terza canzone. È una canzone cantata da Marcella Bella, Io domani. Cause I Eccoci di nuovo in studio e adesso affrontiamo un racconto. Il racconto, siccome è un po' lunghino, lo divideremo in due tranche. Fra la prima e la seconda tranche ci ascolteremo un'altra canzone. Il racconto è intitolato, sentite che bel titolo, Il fantasma del lago nero. Quell'ultimo tratto era proprio ripido. Appoggiata al bastone, osservò la valle che si stendeva ai suoi piedi, ovattata da un silenzio irreale. Poi il cielo annuvolato, un'aria fredda che un po' più in alto trasportava folate di nebbia, le sferzava il volto scompigliandole i lunghi capelli neri. Il proprietario dell'albergo Torre, in Val di Casies, l'aveva sconsigliata perché era previsto bel tempo. Lei aveva voluto salire ugualmente. Era il suo ultimo giorno di vacanza e quel lago voleva vederlo. Gliene avevano parlato fino al suo arrivo, come di un luogo impervio e affascinante. Erano bastati quei due aggettivi a invogliarla ad andarci, oltre al nome stesso che lo avvolgeva in un alone di mistero. Ma per una strana serie di circostanze non era mai riuscita a soddisfare quel desiderio. Il lago nero. La notte precedente lo aveva sognato. Era giunta sui bordi di uno specchio d'acqua circondato da pendii brulli. Mentre vi si avvicinava, nelle acque scure si era formato un improvviso vortice che l'aveva attirata verso il centro, allungandole a dismisura le braccia e le dita, ed era stata inesorabilmente risucchiata in un buio assoluto. L'acqua le turbinava attorno. Cercava con tutte le sue forze di risalire. Si era svegliata con un grido strozzato in gola. Ancora 300 metri. Riprese a camminare con lena nonostante sentisse le gambe appesantirsi sempre più per la fatica. Il costone. Ecco, quello doveva essere l'ultimo costone. Quando vi giunse provò un senso di smarrimento. Era proprio sola. Attorno erba e rocce. Nubi minacciose si avvicinavano. Presto sarebbe piovuto. Essendo ben equipaggiata non gliene importava nulla. Imboccò il sentiero che scendeva, fu presto inghiottita dalla nebbia e le sembrò di galleggiare nel nulla. Udiva solo il rumore dei suoi passi e quello del bastone che picchiava contro le rocce. Dove stava andando? Il timore d'essersi perduta crebbe, cercò di scacciarlo camminando più in fretta. Il lago doveva essere davanti a lei, ne avvertiva la presenza. Un improvviso squarcio. Eccolo, il lago nero. Era chiamato così per il colore scuro dell'acqua a causa dei fondali e delle rocce che vi si specchiavano, soprattutto in giornate con poca luce. Lo guardò per un tempo indefinito. Era come l'aveva visto nel sogno, tondeggiante, circondato da un sottile strato di melma, un bacino naturale d'alta quota profondo 6 o 7 metri. Uscita dal sentiero, camminò su un terreno poroso che cedeva mollemente sotto il suo peso. A pochi metri dalla sponda, ricordando l'immaginario vortice che l'aveva inghiottita, guardò quasi con timore verso il centro del lago, appena incrinato dalle folate del vento. La nebbia, a banchi, veleggiava sulla superficie confondendone i bordi più lontani. Si rivide sul fondo nel turbinio dell'acqua mentre cercava disperatamente di risalire. Un sogno inquietante che l'affascinava. Rifugiatasi nel punto più riparato dal vento, si guardò attorno delusa. Immersa nel grigio, vedeva poco o nulla. Avvertite le prime gocce, estrasse il cappuccio e pensò che doveva ritornare nel più breve tempo possibile. Prima, però, volle mangiare una barra di cioccolato e bere del tè caldo. Fu allora che la vide. Mentre sorseggiava la bevanda, una figura si materializzò nella nebbia, dapprima dai contorni incerti, si era chiesta cosa fosse, poi sempre più definiti. Costeggiando la sponda guardava davanti a sé come ignorasse la sua presenza. Si rannicchiò contro le rocce e l'erba percorsa da un tremito convulso. Ma chi era quell'essere che si muoveva con un'andatura così irreale? Con orrore pensò che potesse essere uscito dall'acqua. quando fu un po' più lontano, cercò di riordinare la propria mente. Non c'era alcun dubbio. Era una figura umana quella che stava vedendo, che appariva e scompariva per poi riapparire ancora. Si alzò e fece alcuni passi guardando verso la sponda est, dove l'aveva vista per l'ultima volta. Si volse di scatto, timorosa di ritrovarsela alle spalle. Attese alcuni minuti. Sembrava scomparsa. Provò una irrefrenabile voglia di fuggire. «Dove sei? Dove sei?» gridò con voce tremante. «Dimmi dove sei!» Scoppiò in un pianto isterico, poi si mise a ridere e le fece bene. Il vento stava diradando la nebbia, per la prima volta vide tutto il lago. Era deserto, lo percorse lentamente, quasi volesse sfidare la sua paura. No, non c'era nessuno, non c'era nulla, solo grosse gocce di pioggia che si infilavano silenziose nell'acqua. Girò più volte su se stessa ripetendo «Dove sei? Dove sei?» Rise ancora, ma questa volta in modo più tranquillo, rilassato. Era stata un'allucinazione e ne comprese anche il probabile motivo. Le pastiglie. Forse ne aveva prese troppe. Eppure ritornò verso il punto dove aveva lasciato lo zaino. Si chinò per raccoglierlo e ancora quei brividi, quel gelo lungo la schiena come se avvertisse una presenza alle sue spalle. «Non voglio voltarmi», si disse. «Non c'è nessuno». Si diresse verso il sentiero e cominciò a salirlo. Le gambe le dolevano, ma si muovevano rapide, spinte da una forza misteriosa. Raggiunto in breve tempo il costone, guardò verso la valle. La intravide sfumata nella pioggia e le piacque. 3 ore dopo, appena entrata nell'albergo, sentì su di sé lo sguardo del gestore. «Starà pensando che sono una pazza», ironizzò. «Forse lo sono davvero». Fece una doccia. Lasciando che l'acqua calda scorresse a lungo sul suo corpo, il piccolo box si riempì di vapore, sembrava nebbia. Rivide quella del lago. Un brivido le percorse la schiena. Uscì e si asciugò in fretta. Una sigaretta. Aveva bisogno di fumare, anche se sapeva che non avrebbe dovuto farlo. Beh, adesso ci fermiamo un momento per una canzone e poi continueremo il racconto. La canzone che ascolteremo adesso è intitolata «Stasera no, no, no», è cantata da Remo Germani. Stasera no, no, no, non puoi dirmi di no. Stasera no, stasera no, no, no, senza te non ci sto. Stasera no, di alle amiche che verrai a passeggio insieme a me. Che voglio stare solo insieme a te, insieme a te. Ti porterò in un posto che so, ti bacerò. E ti darò tutti i baci che ho, ti bacerò. Se qualcuno passerà che ci amiamo, ti ammirà, fingerà di non vederci se ne andrà. Damerò, noi siamo giovani, ma siamo giovani, non voltar le spalle all'amore. Ti dirò frasi romantiche, ti dirai frasi romantiche, mai, mai, mai stasera scorderai. Stasera no, no, no, no, non puoi dirmi di no. Stasera no, stasera no, no, no, senza te non ci sto. Stasera no, giuro da domani faccio quello che tu vuoi, ma stasera devi uscire insieme a me. Stasera no, no, no, non puoi dirmi di no. Di alle amiche che verrai a passeggio insieme a me e che voglio stare solo insieme a te. Stasera no, no, no, no, non puoi dirmi di no. Stasera no, stasera no, no, no, senza te non ci. ci sto, stasera no. Giuro da domani in poi faccio bello che tu vuoi, ma stasera per uscire, ma stasera per uscire, ma stasera per uscire insieme a me. Di nuovo in studio, continuiamo col racconto. Allora, siamo arrivati appunto che si è fumata una sigaretta. Dopo cena disse dove era stata alle persone con le quali aveva fatto una breve escursione qualche giorno prima. Con quel tempo la guardarono sorpresi della sua audacia. Gabriella, Felicita, Amerigo e Manuela trascorrevano le loro vacanze montane in quella valle da diversi anni e il Lago Nero era una delle loro mete preferite. Ma c'erano andati sempre durante giorni di sole. Le venne voglia di raccontare tutto e stupirli. Il fantasma del Lago Nero esordì. Ecco come potrei intitolare la mia avventura odierna. Notò l'interesse da chi la stava ascoltando. Ha visto un fantasma? Chiese Maria Gabriele Felicita. Sì, continuò lei. Raggiunto il lago, a un certo punto nella nebbia si è materializzata una forma umana. Lo spavento non me l'ha fatta vedere bene. Forse era un uomo. È giunto fino a pochi metri. Mi sono rannicchiata nell'erba. Lui si è allontanato senza guardarmi, poi è sparito. Ho percorso quasi tutta la sponda, ma non c'era più nessuno. Per alcuni minuti però mi è sembrato di avvertire una presenza. Manuela si appoggiò al marito. Basta così, per favore, altrimenti questa notte non dormo. Amerigo si rivolse alla donna che aveva narrato quella incredibile vicenda. Temo di doverla deludire, signora. Credo sia rimasta vittima di un fenomeno ben noto in psicologia. Gli elementi naturali giocano strani scherzi alle persone, soprattutto se sono in stato d'animo particolari. Alla nebbia, per esempio, il vento fa assumere a volte forme strane, possono sembrare anche umane. Lei li ha sommate alla suggestione del luogo, del nome, il Lago Nero. Convengo che può indurre a credere di aver visto un fantasma. Fece una pausa, poi concluse. Il fantasma del Lago Nero. Devo ammettere che è affascinante. Le sembrò inutile ribattere. Quell'uomo riteneva che il suo racconto fosse proprio frutto del gioco degli elementi. In sostanza, un'allucinazione. No, doveva essere qualcosa di più. Sarà come dice, rispose come se stesse riflettendo. A me pare di aver proprio visto. Il mattino seguente informò al gestore che volevo prolungare il suo soggiorno e trascorse quella domenica leggendo e riposando. La nuova settimana non era cominciata bene. Fin dalle prime luci dell'alba il cielo si era mostrato coperto di un fitto strato di nubi. Nonostante tutto, decise di risalire al lago. Quel fantasma, perché di un fantasma si trattava, se n'era ormai convinta, voleva rivederlo. Chi poteva essere? La paura non gliel'aveva fatto veder bene. Un uomo? Forse. Era uscito dal lago, come le era sembrato, o la sua immagine si era formata nella nebbia? Solo incontrandolo ancora avrebbe potuto trovare risposta. Non aveva motivo di temerlo. Quando le era passato a pochi metri di distanza, l'aveva ignorata. Giunta sull'ultimo costone verso mezzogiorno, non provò nessun senso di smarrimento e si diresse rapidamente verso il sentiero che scendeva al lago. Era tutto come due giorni prima. L'acqua, dello stesso colore antracite, era appena increspata dalle folate del vento. Le sponde erano sfumate da veli bianchi che si muovevano senza una direzione precisa. Minacciava pioggia. Si rifugiò nel solito posto e guardò verso il punto dove aveva visto la strana creatura. Poi aprì lo zaino per verificare che la macchina fotografica fosse a portata di mano. Dopo circa mezz'ora si spazientì. Nulla. Cominciò a piovere. Quando aveva ormai perso ogni speranza, la rivide. Dapprima dai contorni incerti, una figura emersa dalla nebbia avanzava verso di lei con un'andatura irreale. nonostante si ripetesse che non aveva nulla da temere, quando giunse a pochi metri si ritrasse ancora di più nel piccolo anfratto tra erba e rocce. La guardò. Era un uomo di media altezza con un berretto nero, dal quale emergevano lunghi capelli castani. Indossava una giacca a vento beige e dei pantaloni marrone. Non riusciva a distinguerne il volto, anzi, sembrava non lo avesse. Non appena lo ebbe di spalle, prese la macchina fotografica e fece 5 o 6 scatti. Il fantasma scomparve, riapparve lontano sulla sponda opposta per pochi istanti, scomparve ancora. La nebbia si diradò e il lago apparve ancora nella sua interezza. Non c'era più nessuno. Lo percorse con passo lento, guardando verso il centro, e le sembrò di vedere dei cerchi concentrici che si allargavano proprio nel mezzo. Ritornò dove aveva lasciato lo zaino. Dopo averlo indossato, si incamminò lungo il sentiero che aveva percorso meno di un'ora prima. Appena rientrata in valle, andò in un negozio dove sviluppavano foto in poco tempo. Ne ritirò e la sua delusione fu immensa. In tutte si vedeva solo il lago. Rientrata nel negozio, chiese se avessero una lente di ingrandimento. Quell'incredibile apparizione poteva aver impressionato la pellicola solo debolmente. Quando gliela diedero, ispezionò le foto una ad una. Non c'era nulla, solo una grigia distesa d'acqua e di nebbia. Uscì confusa. Eppure, tranne il volto, lo aveva visto bene. Un'allucinazione. Doveva arrendersi alla spiegazione ricevuta in albergo il sabato sera precedente. Anche la seconda volta? E com'era possibile che si fosse ripetuto puntualmente? Seduta in un bar nel centro, sorseggiando una bevanda, osservò i quadri appesi alle pareti. Uno la colpì in modo particolare. Su un fondo blu suddiviso i rettangoli, 3 sedie azzurre, vuote, in fila. In primo piano e in corrispondenza, 3 figure tutte bianche, con le gambe piegate e il busto eretto come se fossero sedute. Erano sospese del nulla. Sembravano fantasmi. La fecero riflettere e concludere che era proprio una stupida. Solo una stupida poteva pensare di fotografare un essere che vive in altra dimensione. Sorrise divertita del suo assurdo tentativo. Beh, se non poteva fotografarlo, lo avrebbe dipinto. Lei era una pittrice, alcuni anni prima aveva esposto in gallerie famose. Poi erano accaduti alcuni fatti che l'avevano indotta a buttare al vento anni di lavoro. Colpa di quell'uomo assurdo e violento che aveva voluto seguire a tutti i costi. Se n'era invaghita, ignorando tutti gli avvertimenti, negando la realtà anche quando era divenuta schiaffi in faccia o richieste umilianti. Come se provasse piacere a distruggersi. In un'occasione aveva dovuto ricorrere alle cure di un medico senza avere il coraggio di parlare. Anzi, aveva mentito. Poi non era nemmeno bello, mentre lei era una donna affascinante. E a chi le chiedeva il perché di quel rapporto rispondeva di non comprenderlo. Per liberarsene aveva dovuto prima fuggire. Poi seguire una lunga terapia con uno psichiatra. Prendeva sempre quelle maledette pastiglie. Aveva ripreso a dipingere da poco tempo per rimpossessarsi della sua vita. L'avrebbe immortalato di una tela. Non sarebbe stata la stessa cosa, però ne valeva ugualmente la pena. Il fantasma sarebbe apparso solo una volta al giorno e per poco tempo? In questo caso, meglio restare in quota per alcuni giorni. Se ne avesse parlato con il gestore dell'albergo, l'avrebbe considerata proprio pazza. Quel martedì acquistò una piccola tenda e tutto il necessario, oltre a tele, colori, pennelli e un cavalletto, e chiese dove avrebbe potuto trovare alcuni giovani disposti a trasportare tutto quel materiale fino al Lago Nero. Il giorno seguente, al mattino presto, partì assieme a 3 persone. E adesso lasciamo un attimo di suspense prima di concludere il racconto con una canzone. Sì. Una canzone che si chiama Something Stupid di Frank e Nancy Sinatra. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. By saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Andiamo con il finale del racconto. Sabato, un sole inatteso aveva illuminato la valle e le cime che la attorniavano. Verso mezzogiorno, Gabriele, Maria Felicita, Amerigo e Manuela giunsero sul costone sopra il Lago Nero. Una breve sosta ad ammirare le creste delle Dolomiti, poi la discesa lungo il sentiero che li avrebbe condotti alla loro meta. C'è una tenda vicino alla sponda. Gabriele estrasse i binocoli dallo zaino. «Però non vedo nessuno». «Saremo lì presto», disse Amerigo. Raggiunsero la piccola tenda. Era vuota. Osservarono il fornello, 2 pentolini, alcuni indumenti stesi ad asciugare. Quello che li sorprese fu il cavalletto con una tela bianca e la tavolozza, sulla quale c'erano 2 pennelli, appoggiata a terra. Manuela, dopo aver ispezionato gli oggetti, si rivolse agli altri. «Pensate anche voi la stessa cosa?» «Cioè?» chiese Amerigo. «Avete visto gli indumenti? Potrebbero essere di quella donna che abbiamo conosciuto giorni fa in albergo. Ci aveva detto d'essere una pittrice». «Sì, potrebbe essere proprio lei. Un tipo strano. Dopo aver prolungato la sua permanenza nell'albergo, sembra essersi volatilizzata. Sosteneva di aver visto un fantasma, vi ricordate?» «Manuela, non ti impressionare!» Maria Felicita le si avvicinò ridendo. «Credo che Amerigo avesse ragione». Si guardò attorno. «Ma dove sarà andata? Una non viene qui a dipingere per poi allontanarsi troppo». «Cosa facciamo?» domandò Gabriele con lo zaino ancora in spalla. «Ci fermiamo qui e aspettiamo. Dovrebbe ritornare. Però c'è qualcosa che non mi convince», rispose Amerigo sedendosi su una roccia. Dopo alcuni minuti udirono la voce di Maria Felicita proveniente dalla sponda est. «Venite! Venite a vedere!» Quando la raggiunsero, indicò alcuni segni sulla melma. «Ci sono delle impronte che vanno dritte verso il lago. Ce ne sono anche nell'acqua e per un buon tratto.» Si abbassò e aggiunse: «Sono proprio impronte di donna.» Sul bordo l'acqua era limpida. Nel lago, che rifletteva l'azzurro del cielo e cumuli di nuvole bianche, se ne vedevano per 4 o 5 metri in direzione del centro. Ritornarono sui loro passi scrutando i pendii. Gabriele si avvicinò ancora alla tenda e guardò dentro. Sul fondo, sovrapposte, c'erano 3 tele. Le appoggiò una di fianco all'altra, sull'erba. Pur essendo incomplete e tra loro diverse, riproducevano la figura di un uomo che camminava sulla sponda del lago con un berretto nero dal quale emergevano lunghi capelli castani. Indossava una giacca a vento beige e dei pantaloni marrone. In nessuna l'uomo aveva un volto. Sotto però, con tratti nervosi, era scritto Marco. Bello, bello. Con tratti nervosi aveva scritto nervosi. Marco. Quindi si vede che l'ha scritto lei, logicamente, avrà dato un nome lei a questo fantasma, forse. Beh, ho voluto lasciare il racconto un po', nel racconto un po' di indeterminatezza, no? Sì, cioè perché voglio lasciare un po' al lettore il piacere di inventarsi, di no? alcuni di concludere un po' un finale. Insomma. Secondo me lei, come lo vedo io, lei quando ha dipinto quelle tele ha scritto forse un nome magari di un uomo che in passato le era piaciuto. Io la penso così. Ecco, vedi l'investigazione. A me fa piacere che lei abbia dato questa interpretazione e si pubblicherà un libro di racconti, poi lascerò ad ognuno interpretarlo nel modo che riterrà più opportuno. Beh, dopo, un finale sì. Multiplo, diciamo. Ecco. Tu, Antonio, come l'hai interpretato? Beh, non lo so, mi ha inquietato un po' questo racconto, perché proprio c'è quella parte, giustamente, di indeterminatezza che credo in ogni uomo, nel senso che il fatto di andare verso l'ignoto e il fatto di vedere o credere di vedere, che si possono anche equivalere in certi casi, sono cose che lasciano proprio, cioè non si sa per quale motivo, non si sa che cosa ci sia dall'altra parte. Però ecco, mi richiama per esempio all'ultimo film della trilogia di Indiana Jones e l'ultima crociata, quando per salvare il padre, che era interpretato da Sean Connery, Indiana Jones deve mettere un piede in avanti verso l'abisso, e allora lì si immediatamente si materializza un ponte di pietra, e probabilmente questo significa che noi dobbiamo fare qualche cosa per uscire dalla nostra identità abituale, probabilmente, ecco, questo io penso. Comunque lei, in sostanza, secondo il mio punto di vista, lei è andata a finire nell'acqua, insomma, si è forse. Ma io non vorrei aggiungere nulla, perché se aggiungessi qualcosa mi sembrerebbe di togliere il piacere ai futuri lettori di giustamente di dare una loro di sbizzarrirsi nelle interpretazioni. Chi ha voglia di, se qualche ascoltatore ha voglia di dire quello che pensa, può mandare un messaggio. Un finale enigmatico. Esatto. Vero, Antonio? Magari possono mandare un messaggino. Ma esattamente, lo possono fare tranquillamente, cellulare. Anche perché così mettiamo alla prova, la perspicacia e la volontà di mettersi in gioco dei nostri ascoltatori, certo. E soprattutto delle nostre ascoltatrici, perché chiaramente sì, è a loro che si rivolge in genere il nostro pensiero. Sì, perché per primo, è una creatura femminile. E adesso, se abbiamo tempo, farei ancora qualche domanda, se è possibile. Certo, ancora qualche breve domanda si può fare. Adesso, in futuro, che intenzioni ha? Cioè, che progetti che ha? Cosa che farà da grande? Cosa farà da grande? Beh, considerata la mia tenera età, è doveroso pensare al futuro. E per quanto riguarda il mio futuro letterario, spero di riuscire a pubblicare i romanzi che ho scritto e che sono stati valutati da un'agenzia di Milano interessanti. E purtroppo l'editoria non naviga in buone acque e mi hanno già avvisato che devo armarmi di molta pazienza. Pazienza, comunque si sa che la speranza è l'ultima a morire. Eh beh, certo, ma intanto deve scrivere altri racconti per pubblicare il libro di racconti, no? Beh, per me scrivere è diventato vitale, cioè io non considero la scrittura un hobby, ma proprio un'esigenza. Un'esigenza, diciamo. La considero un'espressione di me stesso, quindi è una cosa alla quale non posso assolutamente rinunciare. Beh, chissà che fra qualche mese, non so, dopo Natale, dopo le feste, ci sia qualcosa di nuovo da poter leggere, un altro racconto magari appena sfornato. Beh, guardi, molto, molto volentieri. Comunque ci sentiamo e ci mettiamo d'accordo. Intanto la ringraziamo. E noi la ringraziamo veramente per questo apporto così di mistero, di fascino della montagna, che è una cosa straordinaria, è sempre qualcosa che va al di là di ogni anche intenzione, penso, dell'autore, perché la montagna è un mondo, è un universo. Per chi ama la montagna, poi penso che sia veramente, che piacerà moltissimo sto racconto. Benissimo. Bene. Beh, sono io a ringraziare voi per questa opportunità, perché logicamente ad ogni scrittore piace che le proprie opere vengano conosciute. E diciamo grazie e alla prossima volta. Grazie, quindi, alla prossima. E quindi, anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, diciamo, seguiteci ancora la prossima volta. A domenica prossima. E io, come solito, saluto affettuosamente col mio solito ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.